Una buonasera o un buongiorno, un quant'altro, insomma, possiate immaginare rispetto a tempistiche quotidiane d'ascolto appunto di 451 frammenti sonori. Buonasera, quindi buon pomeriggio, buongiorno da parte di Max Macchia, che ovviamente insomma vi saluta calorosamente e per un'altra puntata appunto dei nostri 451. 451 questa sera sarà una sorta di incrocio, di fusione, se di fusione si può parlare, ma in realtà non è proprio una fusione quella tra solido e liquido, è un tentativo sia così metaforico, se vogliamo, di solidificare quello che è liquido, e anche al contrario, forse al contrario sta già avvenendo da molti anni, ovvero una sorta di liquidità generale, senza, insomma, anzi citandolo direttamente così, come dire, sgombriamo il campo, ecco, il buon Bauman che qualche tempo fa ci ha lasciato e appunto ha coniato anche in una maniera, insomma, piuttosto seminale, quello che fin troppo anche per alcuni aspetti, quello che appunto era definita come società liquida, come vita poi liquida, anche musiche poi di fatto, insomma, che si sono in effetti poi liquefatte, e con tutto anche il paradosso appunto di ciò, e anche per poi approdare invece, se di approdo si può parlare, verso invece forme contrarie, o se vogliamo appunto mischiate tra solido e liquido, ovvero quello appunto, quel processo che avviene comunque, sia in termini di linguaggio musicale ovviamente, che in termini più larghi, di solidificazione anche di qualcosa che comunque tende anche a diventare più contingente e non semplicemente fluente, e quindi anche di fermare la cosa, è un po' anche il termine paradossale che è venuto a crearsi nel momento in cui, insomma, c'è stato l'abbattimento, chiamiamolo così, delle due torri nel 2001. Beh, quello, insomma, non di fatto ha solidificato una situazione che tuttora, insomma, per quanto per molti versi si voglia, insomma, liquida, poi di fatto non lo è, ma forse ancora le vite lo sono, le vite e le musiche che attraversano molte circostanze appunto quotidiane, dai suoni elettronici, che oramai, insomma, digitali, che ormai fanno parte del nostro quotidiano, e alle musiche come vengono anche fruificate da noi, anche da queste parti, insomma, più che altro in termini appunto liquidi, navigando, ecco. E c'è anche un aspetto, insomma, che ovviamente tra solito e liquido ci porterà verso un inevitabile aspetto gassoso della faccenda, ma qua ci potremmo perdere ulteriormente, forse lo faremo anche, perché no, nel caso, insomma, ci siano divagazioni, tutto sommato, come dire, rappresentano anche queste forme gassose, ecco, di incontrare il solido e il liquido. Per iniziare una sorta di idea musicata transglobale, che è quella di Infrared Army, autore ucraino che ha fatto pochi lavori, ma lavori interessanti, più che altro, insomma, dispersi dentro appunto il mare magnum della rete delle musiche appunto, che sono tante, tantissime, quasi impossibili in effetti poi da seguire. Ecco, ogni tanto in questo senso magari facciamo un'operazione di solidificazione per certi aspetti e siamo andati appunto a pescare, quindi a far nostro il progetto di questo ucraino Mitro Soroka, ecco, da Kharkiv appunto in Ucraina, che lavora su sia musiche che provengono appunto dalla sua terra, sia in termini invece forse anche più interessanti, utilizzando l'elettronica, sia in una chiave quasi pop, potremmo dire, per alcuni aspetti, seppur non con riscontri pop in termini insomma di notorietà, ma anche in termini paradossali, e questo rende molto interessante disco come quello di Infrared Army and Trails, che rielabora una sorta non di musica folclorica ma di idea di musica folclorica, di terrestre, quindi di molto solido, e lo rende molto fluente appunto in termini comunque di capacità di linguaggio, di essere diretto, quindi una sorta di qual misura pop, ma anche gassoso, proprio perché riesce quasi a diventare astratto, un astratto perché però spesso è anche così una sorta di gioco molto interessante. Sentiremo anche due pezzi, nel secondo anche un gioco che è un grande omaggio poi a Cage. Ma iniziamo subito con Knock Turn, con un giochino di parole, poi appunto Cage, che è un omaggio rivissuto, risuonato appunto di Cage. In questo intravediamo appunto questo solido liquido, o liquido solido, ecco, gassoso anche appunto come esperienza appunto sperimentale di Infrared Army, per iniziare appunto questo 451. Buon ascolto a questo punto. Dimitro Soroka con il suo progetto Infrared Army, purtroppo disperso come progetto, ma sicuramente un disco che per gli avventurieri come da queste parti si vogliono appunto così andare a tuffare appunto in mare anche abbastanza lontani, come appunto quelli ucraini, avendo però questa fantasia, questo, e non è un caso, il omaggio giocoso rielaborato a Cage, probabilmente tra le corde appunto dell'ucraino Infrared Army, e anche il gioco tra l'altro della stessa titolazione del progetto Infrared Army. Una sorta appunto di armata rossa, ma infra, dentro, sembra quasi paradossale, come ma lo è per come per molte musiche contenute dentro questo piccolo gioiellino misconosciuto degli anni zero. E se volessimo continuare, e lo faremo tra l'altro con un omaggio a Cage, quindi a colui che probabilmente non è stato il primo, ma forse il più noto mescolatore tra liquido, solido e appunto gassoso, tutto con una forma così che ci fa ricordare maniera deliberata, fantasticamente creativa dell'arbitrio, quasi potremmo dire, da Ada, qua in questo caso l'arbitrio dato dal caso, se vogliamo anche qua un paradosso molto molto cageano, che comunque ha dato la possibilità a tanti artisti, liberando anche buona parte delle musiche e della composizione, dando appunto possibilità e rendendo fluido, ecco, in questo senso un qualcosa di molto solido come era la musica contemporanea. Facendo ciò appunto non ha perso, come dire, di robustezza l'idea, il concetto, quello che appunto da Cage, e lo ritroviamo anche in un lavoro splendido di Tania Chen, che si fa accompagnare tra l'altro da un David Tupp che ritroveremo anche tra pochissimo. È proprio un omaggio a Cage, anch'esso nella titolazione, come appunto già faceva Infrared Army, John Cage Electronic Music for Piano. E chiedetevi insomma che cosa diavolo possa significare la musica elettronica per piano, no? Visto che il piano non è esattamente uno strumento elettronico, e troverete anche un po', come dire, il bandolo della matassa, ma poi ascoltandola Tania Chen lo riperderete, e quindi attraverserete insomma in maniera fluida quello che è un concetto che però rimane piuttosto robusto, e quindi in questo senso ci piace insomma considerarlo solido, o comunque quantomeno insomma nel miscuglio delle due tra solido e liquido, appunto, di Tania Chen. E via terminando verso un suono che si avvicina evidentemente al silenzio di Cage, al famosissimo silenzio di Cage, che abbiamo tra l'altro ascoltato sia in una parziale sonorizzazione, se vogliamo concettuale, del silenzio, sia in Infrared Army che in Tanya Chen, dove invece il silenzio è strutturato dentro la stessa composizione. E il silenzio che intanto fa suonare il suono immediatamente successivo, ma che suona probabilmente per quello che è, con appunto l'opera incredibile di Cage, quei famosi 3 minuti e qualcos'altro che tendono insomma a portare, a far fluire in questo caso l'arte verso non soltanto un suono silente, ma sulla riflessione, sul comporre, una riflessione su quello che può essere la performance, appunto, quindi gestualismo composto in questo caso appunto per gli autori. Beh, in questo caso appunto tra solido e liquido, sia Tanya Chen insieme a David Tupp e a Tastor Moore, la chitarra che avete sentito in alcuni passaggi, era appunto di Tastor Moore, che non si scorda, anzi dopo lo scioglimento dei Sonic Youth sempre di più si sta dando alle musiche contemporanee, e visto che poi tra l'altro facevamo un omaggio anche la scorsa volta a grande Glenn Branch, ci piaceva anche ricordarlo appunto come maestro appunto di Tastor Moore, che in questo caso con Tanya Chen e David Tupp si dava alla musica elettronica per pianoforte, ma poi non solo quella, visto che appunto c'era anche appunto la chitarra e tutto l'ambiance di feedback, di ritorni sonori che elabora Tupp, come d'altronde Tupp con Kenny Keda, personaggio tra i più genialoidi dell'improvvisazione giapponese, quindi stiamo parlando di un sorta di viatico eccezionale, quello dell'impro giapponese, forse proprio in termini di ascolto immediatamente ci suona come qualcosa di kejiano. Abbiamo ascoltato per qualche minuto questo skin tone appunto Tupp insieme a Ken Ikeda. Tupp lo ritroviamo per un lavoro a questo punto seminale, non rispetto al silenzio e ai paradossi di Cage tra solido e liquido, ma a quello che potremmo considerare, nel senso della parola, terrestre, quindi più solido di così, e quello che invece è proprio un suono che trasforma il solido facendolo fluire in uno stato gassoso, quello di un dub di Tupp insieme a Chris Cunningham e Steve Beresford, che nei primi anni '80 si inventano General Strike, un progetto tanto wave quanto dub, quanto di sperimentazione sonora, quanto anche di linguaggi poi pop, che soprattutto con Cunningham attraversarono la wave dei Flying Lizard, quindi non è un Flying Lizard, ma dopo vi dico quale volante Flying Lizard è andata facendo new yorkese. E per quanto riguarda i tre appunto di General Strike, c'era appunto questa creazione di forme tra il terrestre e appunto l'astratto, quindi veramente facendo fluire musica che più terrestre non si può, come il reggae, che però appunto viene trasformato in dub e viene poi montato in maniera così vaporosa, potremmo dire, e tanto da portarci appunto da uno stato solido fluendo a uno stato assolutamente gassoso, anche se vogliamo utilizzare un termine inglese, addicted, anche un po' come dire da nube, non soltanto di ganja, ma nube anche proprio concettuale, voluta come tale, che anche in questo senso informerà poi i vari dubbismi, soprattutto degli anni 90, anche quelli dello stesso Tup con varie collaborazioni, ma adesso ci andiamo appunto a prendere da quel Danger in Paradise, quel pericolo in paradiso, che chissà se appunto potremmo anche qua trovare una sorta di solido liquido dentro questo paradiso pericoloso, pericolante, o magari semplicemente accidentato per qualche minuto, i minuti appunto di General Strike.